Stefano Folli. Le foto di Renzi a Bruxelles mentre discute con Angela Merkel non devono trarre in inganno. Il riequilibrio delle politiche economiche in Europa non si fa con quattro chiacchiere, è questione complessa che richiede tempo e in cui il risultato finale non è certo. È vero però che il nostro Presidente del Consiglio ha il vantaggio di non essere più agli occhi dei partner l'oggetto misterioso. Ora è un capo di governo che ha raccolto una percentuale di voti più alta di qualsiasi altro leader dell'Unione, cancelliera tedesca compresa. E lo shock che in questo momento ha annichilito la Francia di Hollande offre all'Italia l'opportunità di contare in Europa più di quanto era mai accaduto negli ultimi anni. Per cui aspettiamo di vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, tenendo presente che c'è da capire se l'Italia otterrà un maggiore ruolo all'interno della Commissione con un portafoglio prestigioso. È lì che si misureranno i nuovi rapporti di forza. Contano i nomi, conta il peso nazionale, conta l'abilità di chi negozia. Per ora si è capito che alla Renzi non piace il nome proposto dalla Merkel per la presidenza, cioè Juncker.